Avvocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Giorno dopo a Casa Azzurri, dopo una notte insonne per tutti, resta ancora il sapore di una serata indimenticabile, con le emozioni, la grande festa e le facce stravolte dei nuovi campioni del mondo, a cominciare da quella di Oddo, ubriaco e non solo di gioia. Lo stato etilico com'è? No, è altissimo, altissimo. Non capisco più niente. No, perché ci hanno messo una cesta di birra in ospedale, hanno sbagliato con la moto. Sì. Tatticamente sono stati proprio... L'associazione parrucchieri ti darà un diploma. Beh, ma lì è stata una cosa estemporanea. Glielo devi rifinire meglio adesso. Io lo rifinisco in albergo, perché poi... non stasera, perché sennò gli faccio un disastro. Ha fatto un buon lavoro. È sempre tatticamente imprudente mettere un cestino di birre nello spogliatoio di una squadra che ha appena vinto il campionato del mondo. Carissimo Luigi Pardo, ciao. Ciao, ciao, ciao. Sempre tatticamente sbagliato. Saluto anche Alberto Brandi, adesso vi spiego tutto. Ciao Alberto. Ciao, ciao Giovanni, ciao Pier. Ciao. Allora, 800 24 00 24, telefoni aperti da qui alle 15.30, e ve lo dico subito, voglio sapere cosa pensate delle notizie di giornata, e cioè che a Strootman sono state tolte le due giornate di squalifica. Poi vi spiegheremo il perché, vi diremo se è stata fatta giustizia o no, ma aspetto di sapere anche la vostra. 349-238-6666, sms e whatsapp. Oggi però, prima di tuffarci nell'attualità, vogliamo cominciare ricordando una persona che per qualcuno è stato un amico, per altri solo un collega, peraltro sempre molto gentile, disponibile anche con quelli che non facevano parte del giro dei grandi network, dei grandi giornali. Quel collega lì si chiamava Alberto Daguanno, lavorava per Mediaset, l'avete sentito il giorno dopo il trionfo mondiale a Berlino nel 2006, 10 anni fa, improvvisamente è venuto a mancare, e io lascio a Pierre e Alberto, che ci hanno lavorato e l'hanno conosciuto certamente più di me. Beh, Alberto sicuramente più di me. Io posso soltanto dire che, insomma, Daguanno è stato oggi, fra l'altro, su Premium è andato in onda alle 12 e andrà in onda anche stasera uno speciale bellissimo che racconta in mezz'ora la particolarità, la grandezza di Alberto Daguanno, persona di un'ironia, di un'autoironia incredibile, di una capacità, secondo me, di interpretare questo mestiere fantastica. Non a caso avevo un rapporto speciale con molti giocatori. I giocatori, insomma, se ti comporti bene e se li fai un po' divertire, se sei una persona onesta, lo apprezzano. E Daguanno aveva veramente un rapporto alla pari con tanti calciatori. Inzaghi gli ha dedicato la doppietta del 2007, pochi mesi dopo la sua scomparsa, a dimostrazione del tipo di rapporto che c'era. E poi, vabbè, gli aneddoti io ne ho pochi, e un po' mi rode, perché chiaramente io sono passato a Mediaset nel 2010, facevo l'inviato qualche volta, ma insomma c'era uno fantastico. Però lascerei la parola al direttore, perché oggi sono passati 10 anni e tutta Mediaset lo ricorda, se possibile ancora di più di quello che già succede tutti i giorni, perché Daguanno è sempre con noi. Alberto, hai detto benissimo Pier, basti pensare che quando abbiamo mandato in onda il primo passaggio di questo speciale, del quale poi vorrei dire due parole, a mezzogiorno su Premium, in redazione c'è stata mezz'ora di silenzio, nessuno fiatava. Potete immaginarvi quale sia la vita di una redazione come la nostra, con il flusso di news, con la preparazione degli eventi, dei programmi. Ecco, per mezz'ora si sentiva solo riecheggiare dei televisori accesi, guardando questo documento che abbiamo deciso, questo prodotto, questo approfondimento, questo speciale che abbiamo deciso di preparare e di dedicare, oltre che ad Alberto, alla sua famiglia, perché è giusto che 10 anni dopo, più che Monica, che ha vissuto al fianco di Alberto nella vita di tutti i giorni, e non solo quella lavorativa, ma anche quella familiare, è giusto, dicevo, che anche i figli, Fabio e soprattutto Lucia, che non, di fatto non ha mai visto suo papà perché è nata ad ottobre e Alberto è scomparso a dicembre, potessero conoscere chi era il loro padre, non solo per l'aspetto professionale, che probabilmente un giorno, quando avranno voglia, recupereranno da YouTube o da qualche canale di condivisione video, ma anche quello che era Alberto dietro le quinte. Infatti abbiamo utilizzato molto materiale sporco, andando a pescare nell'archivio tutti beta, cercando di far capire a chi lo conosceva solo per quello che andava in onda, per quello che scriveva, chi era Alberto. Personalmente era, oltre che un collega, un amico, una persona che ho frequentato dalla fine del 1991 tutti i giorni fino al 2006, e quindi ogni anno il 9 dicembre, ma ogni anno, ogni giorno, noi lo sappiamo, Alberto da quando viene nominato quasi ogni giorno, anche perché è un esempio per tutti quelli che cominciano questa professione, e nell'ultimo periodo a Mediaset, a Premium, ne sono arrivati tanti. Sì, il calcio e lo sport in generale possono essere anche raccontati con sensibilità, anche tuffandosi magari in polemiche, in argomenti spinosi, senza mai tirarsi indietro. La leggerezza era la cifra, la leggerezza unita alla competenza era la cifra, se dobbiamo fare una valutazione dall'esterno, diciamo professionale, era la grande forza di Alberto Aguano, che in quegli anni, lo ricordiamo, era l'inviato di punta di tutti gli eventi, aveva un legame speciale con Mentana, e apriva quando c'erano grandi eventi, apriva il TG5, aveva una straordinaria capacità proprio di divertimento nelle trasferte. Quella foto meravigliosa con la maglia dell'Italia in tribuna, sì, a Berlino. Sì, sì. Mi mancano due cose che avrei voluto vivere. Lui nell'ultima parte della sua vita si trasformò in conduttore, non faceva, negli ultimi giorni non era più inviato, ma conduceva i nostri primi studi importanti anche della Champions League su Premium. E mi spiace che lui si sia perso questa grande avventura di Premium, perché oggi sarebbe stato in prima fila, ovviamente. Mi spiace tanto che si sia perso questa nuova era della nostra informazione con tanto social. Purtroppo quando lui se n'è andato erano agli inizi e non erano ancora parte della nostra vita come adesso. E ogni tanto mi chiedo, ma cosa avrebbe pensato lui di Twitter, di Facebook, Instagram? Quale atteggiamento avrebbe avuto? Ecco, è una risposta che mi manca. Assolutamente, no, penso si sarebbe molto divertito. Vabbè, qui dobbiamo fare il traffico. Io poi ho una chicca che racconta. Ci sono anche quelli giovani che magari racconto non se lo in 15 ricordo, secondi. No? Io lavoravo a Sky, sì. Partita del Messina. Sai che c'è la bassa frequenza, no? Sì. Quindi praticamente quello che viene detto in onda, se tu sei collegato, lo senti. Non lo sentono le persone da casa, ma se c'hai il feed, come si dice, lo senti. E quindi parlavo con Guardalà, Bordocampo, dove andiamo a cena. Hai prenotato tu? No, ho prenotato io. Dai, prenota. Quanti siamo? 8. Così a 20 minuti dal calcio d'inizio. Dopo 3 minuti, arriva la telefonata di Aguano, guarda, dove sei? Ma sei a Messina? No, sono a Cologno, però ho sentito che volete andare al ristorante, ve l'ho chiamato io e ve l'ho prenotato. E ci aveva prenotato il ristorante di Messina da Cologno Monzese, sentendo il feed, e siamo andati a cena ed era anche buona la cena. Lo abbracciamo. Aveva scelto bene. Lo abbracciamo ovviamente forte. Poi era un grande fan di Corrado Guzzanti, no? Dove parlavamo sempre, c'era sempre. Era tutto un mutandari, straordinario. Alberto, ricordiamo gli altri passaggi dello speciale? Per chi vuole capire, vedere. Ce n'è uno imminente per tutti alle 14:30. Ah, questo non lo consigliamo. No, lo consigliamo. E come si fa con la radio? Consigliamo quello su Premium in maniera particolare. Facciamo un rewind. Ok, 14:30 sono stati tutti convocati. soprattutto se come mettete in macchina. Ce n'è un altro alle ore 20. Alle ore 20 questa sera su Premium Sport, e quello è da non perdere. Mi dispiace per i colleghi di Radio 24 che saranno in onda a quell'ora. Ma c'è la Zanzara, il signor Cruciani. Il signor Cruciani apprezzerà. Il signor Cruciani, 14:30 Italia 2, 20 Premium. Fate quello che volete, Io l'ho visto ed è bellissimo e vale veramente la pena. Ciao Alberto, grazie. Ciao, c'è traffico. Ciao. Tutti convocati. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta. Tutti convocati. L'apertura di Castellini per Asta, mette giù il pallone, si accentra dentro verso Ferrante. Buffon, un miracolo. E poi c'è il gol del pareggio. Il pareggio del Torino, incredibile! C'è il solito spazio per Durán, prova ad accelerare, palla al piede, va per il cross, e c'è il gol del pareggio della Juventus! Un gol di Maresca, che poi va a mimare le corna del Toro a mo' di schermo, ed è il gol del pazzesco 2-2! Signori, benvenuti al derby della Mole! Sorriso contro vento, il cielo su Torino sembra muoversi al tuo fianco. Tu sei come me. Grande azione di Bruno Perez, che ancora fa tutto il campo con sto costo. Bruno Perez! coast to coast! Che gol pazzesco! Che gol pazzesco del brasiliano! Sparata forse per l'ultima occasione della Juve, dentro il pallone per Vidal. Si libera Pirlo, è pronto al tiro, lo effettua con il destro! Pallone per Alexandro che va al cross, Cuadrado! Juan Cuadrado! Stavolta il 93esimo, a un minuto dalla fine, ancora 2-1 Juve, come l'anno scorso. Halloween da paura per il Toro e Juan Cuadrado la mette in porta. Allora, io lo dico adesso, domenica pomeriggio, pronostico che dalle 17 in poi ci sarà sangue e arena sul derby di Torino. So perché ho questa sensazione qua. Non so, ho questa sensazione qua. Saluto Alessandro Birindelli e Antonino Asta. Ciao, buonasera. Ciao a tutti e due. Antonino, credo coinvolto in uno dei derby che abbiamo sentito in questa copertina. Antonino? Sì, sì. Cos'era? 3-3? Abbastanza coinvolto. Eh? Abbastanza. Abbastanza. L'ho solo sentito, ma ce l'ho ben presente ancora vivo nei miei occhi, nei miei ricordi, perché insomma fu il 3-3 che fu qualcosa di bellissimo da recuperare, ma il 2-2 ancora più male, perché veramente vincevamo fino a poco dalla fine contro una squadra pazzesca, veramente quella da Juve, che poi vinse il campionato, e soprattutto quel gesto di Maresca, ti posso garantire che non è finito là, è nel sottopassaggio. Soprattutto Lucarelli, che è successo? Ancora. No, niente di che, tanto, ma è stata in prescrizione. È normale, dai, quando sono quei derby, lui fa quel gesto delle corna sotto la nostra panchina, con in panchina Ferrante, che era il suo modo di esultare. Prova a immaginarti, noi per reggere un derby così, che per noi sarebbe stata, ti cambia la vita per noi del Toro, perché la Juve in quegli anni era imbattibile, e allora insomma lui era giovane e esultò così. Però giustamente si prese qualche calcetto, non solo da dietro, insomma, ma nulla di che. Però da lì incomincio a capire cosa vuol dire quando affronti il Toro e portare rispetto, e da lì forse gli abbiamo fatto crescere anche lui come uomo. Senti, come ragazzo, perché la buca com'era? La buca di Maspero. Ma allora, la buca di Ricky, di Maspero, allora, anche quest'altra, che sai che è stata. Ma lui, sai come quando giochi tra bambini o all'oratorio tra amici, c'è un rigore, vai lì e ti porto sfortuna, sì, ti tocco lì, ma nulla di che. Lì Salas ci ha messo del suo, meno male. Cioè, quindi è una leggenda metropolitana che gli ha fatto sbagliare il rigore con la buca. Diciamo che lui è andato lì con tutte le cose, ha cercato di È come l'acqua di Strootman, fa parte del clima da derby. Sì, poi parliamo. Sì. Aspetta che, allora, Alessandro Birindelli invece ci racconti che sensazione è la prima che ti viene in mente parlando del derby visto dalla sponda juventina. Ma guarda, io non so se l'avete fatta apposta, ma ieri in un'intervista ho detto che i derby che ricordo con maggior, non con maggior piacere, però con attenzione, dove c'è stato animazione, sono stati proprio il 2-2 e il 3-3, che tra le altre cose io non ho neanche giocato, quindi però li ho vissuti da esterno con grande partecipazione, perché sono stati veramente delle partite ad alta intensità, con colpi di scena sia da una parte che dall'altra, come ricordava Antonino, che saluto, ciao Antonino, ciao Ale, ciao ciao, il 3-3 è stato poi veramente da 3-0, poi all'ultimo minuto entra Salas, se sbaglia il rigore, l'apoteosi totale. E devo dire, questi sono stati i due derby che ricordo per delle situazioni particolari che si sono create, un po' folcloristiche, un po' goliardiche, come diceva anche quella di Maresca, che ha avuto anche conseguenze nei giorni successivi, nei mesi successivi per lui. Sinceramente, andare in giro per Torino non era Ma che facevate? Lo scortavate voi? Passo a prenderti a casa? I primi giorni sì, perché veramente lui è giovanissimo, aveva paura, perché ogni giorno riceveva delle minacce. Poi sappiamo, così, specialmente poi della parte Granata, quanto amore, quanta passione, e si erano sentiti veramente feriti. Lui ha fatto un gesto che lì per lì poteva essere, ci poteva stare, però chiaramente passare di fronte alla panchina non è mai poi non so se è andata anche sotto la curva, sì, no? Questa sì, cosa qua. Ho questa immagine, lui che sì, inizia sotto la curva e finisce davanti alla panchina. Sì, bravo, sì, diciamo, insomma, non il massimo per tenere calmi gli animi, però. Ci dite la cosa più bella di essere granata o bianconeri rispettivamente? Ma io da granata ti dico la cosa bella è che siamo sfigati. È quella, è per assurdo è bella, nel senso che ci portiamo sempre dietro quest'alone da una vita, sai, dalla storia del toro, quella che è. Però diventa la sua bellezza, la sua passione, la tua fortuna veramente di indossare quella maglia che è paradossale. Ogni volta ognuno dice che è un valore diverso, un'area diversa, una sensazione diversa. Io ti dico, all'inizio non era così, poi stando lì 5 anni a Torino effettivamente lo vivi, lo avverti, perché il tifoso ogni giorno ti ricorda quasi quello che è il passato. Ahimè, purtroppo è fin troppo alle volte ricordare il passato, perché insomma il toro di adesso ha bisogno del presente e soprattutto del futuro, e credo che sia sulla strada giusta. Alessandro? Sì, ma ho avuto la fortuna di lavorare in una delle società più importanti in quel periodo al mondo. E ho imparato la professionalità, cosa voleva dire, cosa volesse dire il millimetro, il centimetro, curare il particolare, non solo in campo ma anche fuori. Questo te lo facevano passare, te lo facevano osservare ogni giorno i comportamenti dei dirigenti, di chi lavora per Juventus, quindi questo mi sta servendo anche poi in questo nuovo percorso di vita. E questo me lo porterò dentro, ecco. Ringrazio, perché poi mi ha dato anche la possibilità di affacciarmi un calcio importante, internazionale, di vincere, e quindi questo penso sia la cosa che mi rimarrà sempre. Ma ha ragione la Juve domenica ad approcciarla con cautela questa partita. Io oggi ho letto sulla stampa dei dati incredibili, cioè in casa il Torino dall'inizio del campionato è stato in svantaggio per 8 minuti. La Juventus deve aver timore, perché il Torino può essere una squadra che, per le caratteristiche che ha, può mettere in difficoltà la Juventus, specialmente sulle corsie esterne, con giocatori di grande corsa, di grande fantasia. La Juventus si è ritrovata in queste 2-3 partite, però fisicamente, come intensità, ancora non è al massimo. Quindi io credo che vedremo una partita bella, entusiasmante, con dei colpi di scena sicuramente. Tonino? Ha detto bene Ale, secondo me il discorso tattico può essere importante se la Juve dovesse partire col 4-3-1-2 o il 3-5-2, perché i due esterni del Toro insomma stanno facendo molto bene. Poi c'è un posto nel campo dove il Toro è più forte della Juve. Bravo, lì si può decidere veramente, capire se quanto la Juve lì poi voglia spingere e lasciare magari 3 difensori contro i 3 attaccanti del Toro e lasciare gli esterni, o se invece si abbassano i 2 esterni, Alessandro da una parte e Leistane se dovesse giocare a diventare a 5, allora troverebbe meno spazio il Toro, perché centralmente un po' fatica sta facendo, cose che sugli esterni invece sfrutta al meglio le caratteristiche di Lealic in questo momento e di Iago Falco. E tra Belotti e Higuain c'è partita? O sono mondi ancora distanti? Ma io credo che... Ah, scusa, vai Ale. No, vai, Tonino. Sceglietene uno però, eh. No, va bene, se devo scegliere uno, non perché Higuain non è italiano, ci mancherebbe, no, io scelgo tutta la vita un giocatore italiano, un giovane che veramente può diventare, per quello che sta dimostrando, un punto di riferimento anche per la nazionale. Quindi in questo momento è più forte Higuain, non c'è dubbio, è più giocatore importante, ma Belotti lo può diventare. Io scelgo Belotti perché penso che in questo momento se lo meriti, è un ragazzo che dà tutto in campo, è un ragazzo che può far ben sperare altri giovani importanti italiani, e per la crescita del nostro calcio è giusto che sia così. Poi riconosco e riconosciamo tutte le qualità di Higuain. Certo, abbiamo la borsa, vi saluto. Ciao ragazzi. Sono andati. Ciao, dai, un saluto al signor Asta. Antonino Asta, signor Birindelli. Torneremo a parlare del derby torino, soprattutto della squalifica di Stotto. Tolta, siete caldissimi, cioè, Pagliacci, anti-juventini, filo romanisti, anti-romanisti. Vi aspettiamo qui 800 24 00 24. Torniamo subito. Tutti convocati. Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi programma radiofonico, scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy, ogni domenica alle 14.30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Andare ad immaginare che si applichi una norma pensata per una simulazione evidente, quando invece questo è stato ricostruito un caso di simulazione parziale, cioè c'è l'atto violento di Cataldi, ma c'è anche forse una simulazione nell'interpretazione che ne ha voluto dare la Procura federale, quindi questo va a aprire nuovi fronti e ogni nuova frontiera che appunto va in qualche modo a mettere in dubbio la solidità dell'impianto sportivo esistente pone a rischio la rivalità del campionato in generale, l'interesse di tutti, l'interesse che dobbiamo combattere tutti. Questo Baldissoni prima dell'udienza, poi la squalifica di Strootman è stata tolta. Io dico, così partiamo da qui, giustizia è stata fatta, per fortuna, perché si era creato un precedente pericoloso. Il comportamento di Strootman non è stato bello, in quel minuto lì, così togliamo subito, Strootman non si è comportato bene e quindi lo diciamo, ha provocato, ha lanciato l'acqua, a mezzo simulato, insomma, non benissimo. Però infatti sono due piani completamente diversi. Però la prova TV deve essere asettica, chirurgica. Ci sono le regole. Ha delle regole, la prova TV, se questa regola, se si rientra nell'ambito di quelle regole, può essere applicata, altrimenti no. Hai fatto benissimo a sottolinearlo, il comportamento di Strootman secondo me è da multa. Cioè, se io fossi un dirigente della Roma, multerei Strootman, perché quello che ha fatto è stato inutile, dannoso, sbagliato, non bello da far vedere, quindi il giudizio tra virgolette morale. Però non punibile con la prova TV per quella fattispecie. Era veramente molto molto difficile secondo me applicare la prova TV in un episodio di cui l'arbitro, sappiamo, aveva comunque visto una gran parte, con un provvedimento disciplinare che comunque era arrivato. Si rischiava, come dicevo l'altro giorno, di aprire un precedente in cui in ogni partita di campionato, se la valutazione dell'arbitro fosse stata non del tutto rispondente a quello che poi realmente si è visto, il giudice sportivo poteva intervenire modificare. Si scriveva, tra l'altro noi siamo alla vigilia della moviola in campo, dell'assistenza video, quindi attenzione anche lì, gli ambiti dovranno essere ben separati. Massimo Caputi, ciao! Ciao, buon pomeriggio! Oh, io leggo qualche messaggio che sta arrivando, 349-238-6666, da tifoso della Juve sono contento che abbiano tolto la squalifica, anche se credo fosse giusta, però c'è troppo pregiudizio contro la Juve. Poi ancora quanti cavilli per salvare le romane, avevo scommesso 20 euro sulla revoca della squalifica e ho incassato 20,50 euro, tutto era scritto. Poi da juventino ho goduto del fatto che non ci fosse Strootman, sono sincero ma penso che sia giusto così. Poi c'è qualcuno che già si mette le mani avanti e comincia a scrivere a proposito di Rocchi, mandato a fare Torino-Juve, tanto saremo qui, ne parliamo di arbitri domenica, lunedì, martedì, mercoledì. Tu che pensi, Massimo, sulla vicenda Strootman, com'è finita? Allora, sono d'accordo con voi sul fatto che sia stata fatta giustizia e che al tempo stesso, da un punto di vista morale, Strootman debba essere criticato. E ci metterei anche l'affermazione di Baldissoni così a caldo sul fatto che insomma c'era un complotto, perché anche quelle insomma sono frasi che Massimo in realtà non ha detto complotto, però diciamo che ha detto quel guarda caso. Non l'ha detto, diciamo, lui, no, ha evocato l'idea, esatto, questo pure, diciamo, non era è meglio bello, no, non è bello. Era meglio non farlo. Dico che è stata fatta una brutta figura, veramente una gran brutta figura da parte della Procura federale, perché ha messo in piedi una cosa che non stava in piedi e al tempo stesso se l'è dovuta poi rimangiare appunto con la decisione della Corte d'Appello. Meno male, perché credo che andavano a intaccare due concetti. Innanzitutto l'operato dell'arbitro, il primo che penso doveva adirarsi da un certo tipo di comportamento doveva essere Nicchi, perché a quel punto si certificava che gli arbitri contavano praticamente poco e le decisioni in campo potevano essere ribaltate successivamente. E poi perché se si vuole ampliare, e non è detto che sia un male, la prova televisiva, prima bisogna fare le regole e poi la si applica. Sì, e poi bisogna applicarle. Oh, io vado avanti a leggere i messaggi, giustizia fatta, va bene, siamo alla farsa. C'è anche qui. Pelato e Gordo, l'unica ingiustizia universale che voi possiate sproloquiare. Un amico che scrive, ce l'ha più con te, devo dire, perché anche i messaggi prima. Però credo Gordo, io sono diversamente Gordo pettinato. Credo di essere io, tu sei Pelato sicuro, io però mi sento abbastanza chiamato in causa da Gordo, per cui... farsa, la squalifica è stata tolta solo perché c'era di mezzo la Juve, ma non è vero. Adesso stiamo parlando di altro. Posso dire questa cosa qui? Allora, se, e l'abbiamo fatto l'altro giorno, e Massimo, che probabilmente l'altro giorno neanche ci ha ascoltato, ha detto la stessa cosa adesso. Se abbiamo stigmatizzato, abbiamo detto che non ci piacevano le parole di Baldissoni, che evocava l'idea che fossero due partite molto particolari quelle con Milan e Juve, che quindi ci potesse essere, vuol dire, se abbiamo fatto questo ragionamento, al tempo stesso adesso è sbagliato dire che è stata tolta perché c'erano Milan e Juve, no? Siccome non è successo niente, siccome io contesto la teoria del complotto, così come contesto la teoria del complotto di dire che gli avevano dato due giornate perché c'erano Milan e Juve, adesso contesto l'idea che gliel'abbiano tolte perché erano Milan e Juve. Spero e penso che sia stata fatta una valutazione di merito su quelle che sono le regole di applicazione del Moviola. Dato un giorno dedicheremo una puntata intera per spiegare che non c'entra nulla la squalifica di Strootman con quelle date a Krasic e Zalagetta per altri tipi di simulazione, anche quelli con la prova TV. Massimo, ti chiedo un minuto di pazienza, ci sono Carmine Moreno, Carmine D'Avellino. Carmine, buonasera, grazie per la convocazione. Eccoci. Vabbè, dopo aver ascoltato attentamente gli ultimi 4 minuti di trasmissione, ecco, non posso aggiungere altro. Però anche altro. Quelli prima, Calma. Ah, sì. Non posso aggiungere altro, cioè sono tifoso della Roma, naturalmente, sì. Sono pienamente d'accordo con tutto quello che è stato detto. L'unica cortesia, ecco, essere informato se il signor Strootman verrà multato dalla società, perché onestamente io gioco a calcio a 45 anni e cioè quando vedo questi signori che vengono pagati anche profumatamente ad avere degli atteggiamenti così da bambino, perché poi quel gesto della bottiglietta d'acqua verso l'avversario, cioè è proprio un'istigazione, e poi fai pure quel poco di simulazione, per me è stato molto molto poco corretto. Sì, tutto molto brutto, Strootman. Poi sarebbe bello conoscere il regolamento, tutti noi che ne parliamo, ma anche quelli che vanno allo stadio, perché il gesto dell'acqua, ad esempio, che è brutto da vedere, però non è condotta violenta. Vale al massimo un'ammonizione, sì, ma sì, c'è scritto, ma infatti, nelle regole. Assolutamente, infatti, qui poi cioè, se vuoi andiamo sarebbe bello conoscere le regole. Molto molto tecnici, ma abbiamo il traffico. No, aspetta, prima abbiamo anche Moreno che ci aspetta. Dai, Moreno. Ciao. Eccoci. Io volevo fare due considerazioni. Una su Paolo Liguori, se lo richiamate adesso, sì. Così almeno sentiamo cosa ci dispensa dall'alto della sua professionalità. Proviamo. E la seconda cosa, se date 2 minuti di tempo all'articolo che ha scritto stamattina su Sport sulla designazione dell'arbitro Rocchi. Sì. Se noi cosa dobbiamo dare? Affrontiamo un derby così. Ma tu sei tifoso del Toro o della Juve, scusa? Io sono tifoso della Juve, ma la cosa peggiore che dovete spiegare a chi ha scritto l'articolo, che il gol di Trezeguet 7 anni fa era anche regolare. Se posso dire a me quello che non è piaciuto le designazioni per questo Juve Toro non è tanto Rocchi, ma che ci mandano 3 dei protagonisti del casino di Strootman, compreso Banti, che va a fare l'addizionale, e ci mandano Irrati, che è l'arbitro che ha fatto squalificare Nedved 3 giorni fa per gli insulti. Nedved e Paratici, l'arbitro di Udinese-Napoli dell'anno scorso nello spogliatoio nell'intervallo di Juve-Atalanta. Dire che non è facile, l'esignazione sull'arbitorino non è facile, sì, perché però, è una partita dove negli ultimi anni bisogna un po' sono successe addosso, talmente tante cose, bisogna tirarsene un po' addosso alle volte. Abbiamo il traffico, ci teniamo Massimo Caputi perché poi finiamo la discussione sulla squalifica tolta a Strootman. Traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Marotta ha detto delle cose giuste, perché sicuramente io sono un tifoso, anche abbastanza orgoglioso di esserlo. Ha anche detto che Gandini è serio, preparato e competente, lo è assolutamente tantissimo. mi ha anche suggerito di confrontarmi con lui. In realtà lo faccio tutti i giorni, tutto il giorno, visto che lavoriamo insieme, pensavamo però che questo Marotta lo sapesse. Però detto questo, cioè, è evidente che se parla Baldissino per la Gattini è la Roma che parla, non c'è una differenza. Marotta, che è un bravissimo dirigente, un grande dirigente come voi sapete, sa perfettamente quanto è importante che le motivazioni discutibili come quelle alla base di questa squalifica non passino al vaglio della Corte federale, perché sa appunto che è un interesse di tutti mantenere la certezza del diritto, e infatti vi dico che è d'accordissimo con noi sui presupposti di questo ricorso. Hai capito, anche Marotta era d'accordo sul ricorso della Roma, eh? Questo ce l'ha raccontato Baldissoni. Oh, Massimo Caputi, ti chiedo, la risposta secondo me è no, dal piccolo osservatore dei messaggi che stanno arrivando, se questa cosa, cioè la squalifica tolta, getta un po' di acqua sul fuoco di queste due settimane tra derby di Torino, Roma-Milan e Juve-Roma. No, non le toglie, ma soprattutto per Roma-Juve, non credo tanto per Roma-Milan. È Juve-Roma la partita, è la madre di tutte le partite, soprattutto quando queste gare hanno un valore di classifica di un certo livello, come è in questa stagione. Però io credo che tutti quanti noi ci dobbiamo provare a buttare acqua sul fuoco, lo stiamo facendo, lo fate tutti i giorni, perché è giusto che sia così, perché sennò se si ragiona come i comuni e le signorie, Guelfi e Ghibellini, non si va da nessuna parte. Io credo che su questa vicenda Strootman ci sia stato un errore di base, che è quello dell'organo di giustizia, che aveva messo in piedi, ripeto, una squalifica che non esisteva. Ora è stata, diciamo, riportato tutto alla normalità, e auguriamoci che Juventus e Roma sia quella gran bella partita che deve essere tra due grandi squadre. Mi permetto anche di dire, visto che parlavate prima degli arbitri, che per il disegnatore credo che ci sia stata e ci sia anche questo problema, e cioè a chi far arbitrare Juventus e Roma. Viste le designazioni, credo che si andrà nei confronti di Orsato o di Rizzoli. Sì, credo sì, Orsato Rizzoli, sì, però va bene tutto. Ma se tu mandi 4 su 6 che sono direttamente o indirettamente coinvolti nelle polemiche della settimana, secondo me un pochino te la vai a cercare. Ma noi siamo contenti, noi siamo qua, ci sediamo, aspettiamo e ripeto, poi ne riparliamo domenica. Grazie Massimo. Ciao. Grazie a voi, ciao, un saluto. Ciao. Buon golf a Pardo. Sì. Ah, grande. Tanto tra l'altro quanto sono Pippa? Dillo, da 1 a 10. No, ma ho visto qualche quanta foto. Quanta strada c'è da fare? Ma Caputi è bravo, uno però vero, sulla foto non si vede come andava. Ti dico solo, mi ha portato in un posto, c'era una buca, praticamente era tutto lago, sì, tutto lago dall'alto, e poi c'era una cosa piccoletta. E tu l'hai presa? No, io sono riuscito a... Il lago. Sì, diciamo, ho perso una pallina, però morta la pallina se ne fa un'altra, abbiamo messo la più brutta che c'era. Certo, e lui invece l'ha presa. E lui certo, lui era in green, Jack Nicklaus lo chiamano. Ciao Massimo, grazie. Ma dammi 5 anni che ti ripiro. Dammi 5 anni di galera. L'entusiasmo è la qualità migliore. Tu sei tanto e vedrai che riuscirai alla grande. Forse anche l'unica in questo caso. Lui è tanto entusiasta. Ciao. Grazie Massimo. Oh, intanto vi dico che il Sassuolo ha perso in casa, sì, contro il Genk. 2-0, finisce qui quindi l'Europa League, in generale per la prima fase, e del Sassuolo. Brutta notizia per Roma e Fiorentina, perché l'Athletic Bilbao scala in seconda posizione, e con il Manchester United andrà nella urna. Se Juve e Napoli hanno potenziali avversari, potenzialmente Real e Bayern, di Roma, credo e che anche Roma e Fiorentina possano dover affrontare. Però abbiamo scelto l'anno giusto per vincere i gironi. Lo so, vabbè, però insomma, dai, non, speriamo bene, comunque sia, era importante intanto fare questo primo passo, cosa che Inter e Sassuolo purtroppo non sono riusciti a fare. No, qui arriva un sacco di messaggi, esiste una realtà di quello che abbiamo visto, lo ribadisco per l'ennesima volta, il comportamento di Strootman non è da far vedere ai bambini, è da multare, secondo me è stato sbagliato, è stato sciocco, però esiste poi un criterio di applicazione della prova TV che in questo caso non c'era, e l'ha riconosciuto lo stesso giudice sportivo quest'oggi. Fra l'altro il riferimento alla simulazione è che comunque c'è stata una trattenuta, che Strootman si è rialzato subito, insomma, questo è il motivo per il quale è stata tolta la squalifica. Salvatore da Napoli, poi dobbiamo riservarci un minuto per la schedina. Salvatore. Salve, grazie. Eccoci. Per la congruazione. Senta, guardi, io sono d'accordo con tutte le parole che sono state dette, la multa, insomma, non si è comportato in maniera civile, eccetera, tutto quanto. Però io, secondo me, la spruzzatina di Strootman nei confronti di acqua, nei confronti dell'avversario, è quasi paragonabile a uno sputo. È una provocazione molto forte. Ma secondo me, però secondo non è così, me, regole alla mano. Però capisco il ragionamento. Però dimmi. Voglio dire, sì, va bene, cioè, ma probabilmente per uno sputo ci sarebbe stata una squalifica bella tosta. Capito, ma uno sputo è un'altra cosa. Mi scusi, lei preferisce anche per un pugno ci sarebbe stata. Preferisce però è un'altra cosa. Che le dia un bicchiere d'acqua o un bicchiere di uno sputo. Adesso veramente vale tutto. Il gesto è sbagliato. Il gesto è chiaramente sbagliato. Il gesto, fra l'altro, lo ricordiamo perché cerchiamo di essere, diciamo, tra virgolette, didattici. Il gesto dell'acqua, che non credo l'arbitro abbia visto, ma comunque rientrava nella fattispecie del comportamento provocatorio che aveva portato all'ammonizione di Strootman, quindi era già stato giudicato, quello che è stato giudicato dal giudice sportivo e che oggi ha portato alla mancata doppia squalifica è la seconda parte, cioè la parte dell'eventuale simulazione da parte della di Strootman. Abbiamo un minuto, in un minuto mi devi fare la schedina, attenzione, prendete nota perché la settimana scorsa ha fatto sì, ma abbiamo un minuto, parliamo di altro. O settimana scorsa hai fatto 7. Ma sì, ma ragazzi, ma io ormai do soltanto Crotone Pescara, vai. Crotone Pescara 1. 1. Sampdoria Lazio. 2. 2. Cagliari Napoli. 2. Atalanta Udinese. 1. Bologna Empoli. X. Palermo Chievo. 2. Toro Juve. No, Toro Juve te la faccio dopo. Inter Genoa. 1. Fiorentina Sassuolo. X. Roma-Milan 1. E adesso mi devi dire Toro-Juve 2. 2. Allora, questa è la schedina, avete preso nota. Poi martedì facciamo il conto, settimana, perché settimana è un vero, settimana è vero burdello, guarda De Luca che mi guarda, Puntiamo al 4 su 10. Oh, ci fermiamo qui. Come c'è il GR 800 24 9 su 10, al grande record, perché puntiamo la perfezione di questo mondo. Fra poco arrivano Busta, Veronesi, torniamo a parlare di derby, sì, e poi molte altre cose, e poi ci sono anche gli altri sport, ci saranno gli altri sport. No, non c'è. C'è anche il Chi l'ha visto, dedicato ai tifosi dell'Inter. Torniamo subito. Tutti convocati. Bologna-Venezia, viaggetto romantico, io, lei e il sistema Digital Radio. Sentiamo la radio? Certo, ma ascoltiamola in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto grazie all'autoradio digitale. Niente effetto salto, nemmeno se ti sposti per chilometri, perché il sistema Digital Radio non ti lascia mai. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da Wafer Lago. Wafer Lago. Dolci emozioni italiane. Tutti convocati. Ci fossi stata tu. Cambia la guerra soltanto quella sportiva, per carità. Fra Toro e Juve, buongiorno Busta, c'è anche Veronesi, pronto? Come state? Buongiorno a tutti, come state voi? Bene, io approfitto. Buongiorno Veronesi, come va? Bene. Tutto a posto, ecco. Parto da Busta solo perché abbiamo sentito la canzone, approfitto per fare i complimenti per queste sonorità ipnotiche e rarefatte. Posso dirlo? Dove l'hai letta questa cosa? No, me la sono inventata adesso, però ipnotica è rarefatta. Fa molto, beh, ipnotica lo senti, ipnotico è rarefatta pure, no? Sembra di stare in una stanza chiusa, magari con Greta Menchi, con cui hai girato il video. Ma è cambiata la guerra sportiva fra Toro e Juve oppure non cambia mai? Guarda, mi ero preparato un lungo discorso in cui volevo dire no, per noi ragazzi serve una partita come le altre. Comunque noi amiamo il buon calcio e il bel gioco. In realtà la domenica sarà una domenica come tutte le altre. La verità è che no, non è assolutamente così. No, credo che non sia cambiato nulla sostanzialmente, diciamo che l'ansia cresce esponenzialmente. E poi da Sabaudi, insomma, teniamo l'understatement, ce ne stiamo tranquilli, sì, vabbè, andrà come deve andare, però... Insomma, c'è un po'... Però siamo carichi, siamo carichi a molla proprio. Non so se quello di Veronesi, se il derby di Veronesi magari è più con la Viola, perché insomma lui da Prato quella partita immagino la sente in maniera particolare. Che rapporto c'è col Torino? È molto letterario, no? Appunto, io poi sono senza posto, sono una polide, e quindi poi la polide torna sempre nel luogo della mente. Il luogo della mente è Torino. E il derby è il derby, la voglia. Sono stato insultato dai tifosi della Fiorentina per tutta la mia giovinezza, ma e mai da un tifoso del Torino, perché non ho mai presenziato dei derby. Però il derby è quello lì, non ci sono altre partite più calde di quella nella mia mente. Ecco, ma in tutto questo la letterarietà del Torino, c'è anche ovviamente quella della Juve, anche la Juve ovviamente ha i suoi grandi eroi e ne ha iscritto, ai suoi drammi, alle sue tragedie sportive e non soltanto, però insomma il Toro è proprio materia pregiata da questo punto di vista, o no? Ma secondo me è la qualità dei letterati che ne hanno scritto che fa la differenza, e evidentemente il Torino ha avuto dei cantori migliori, perché poi in realtà... anche soltanto l'anno scorso la Juventus ha fatto una cosa che nella storia del nostro campionato meriterebbe veramente un'ode, a quella rimonta, a quel record. Era morta, è risorta davanti a tutti. Quindi il Torino sì, oltretutto c'ha questo vulnus che ogni tanto le tragedie che toccano agli altri riapre, no? E una delle ragioni per cui il Torino giocherà un grande derby, secondo me, è anche la tragedia che ha colpito quella squadra che non so pronunciare, e tutta la gente che ci viaggiava insieme, che è in qualche modo una forma di stimolo, ha riaperto quella ferita, e quella sì che è letteratura. Poi però sul campo più che altro sono calcioni, più che letteratura. Ma c'è un pizzico di invidia in un tifoso letterato della Juve, di quella che è la leggenda del Toro? Cioè di dire, noi siamo la Juve, noi vinciamo tutto, noi siamo i più forti da sempre, magari sarà così per mille anni, però quella cosa lì che hanno i tifosi del Toro noi non ce l'abbiamo. Ma io di solito le ferite degli altri non le invidio, quella è una ferita, è una sfortuna, è un dolore. Non glielo invidio, dico che da tifoso della Juventus io non ho mai pensato di essere il più forte, perché ricordo molto di più le sconfitte delle vittorie, e il fatto che la Juventus sia sempre lì tutti gli anni a lottare significa che ha perso anche tantissimo, ha perso tante finali di Champions che fanno male, ha perso tanti scudetti all'ultima giornata, e quindi non penso che l'epica del perdente sia lontana dalla Juventus, perché insomma tutte quelle finali di Champions perse già bastano a me, senza bisogno di metterci sopra anche una sciagura, certo, e una leggenda interrotta in quel modo. Devo dire che insomma la squadra prima della sciagura, quella squadra era leggendaria, e la leggenda l'ha scritta, ha vinto 5 scudetti di fila, come anche questa di Juventus. Quindi insomma il fatto di lottare per vincere il sesto è abbastanza leggendario, senza metterci in mezzo le tragedie degli altri, ecco. Davide, ma insomma, quel clima di derby permanente che c'è nei Subsonica rimane. Adesso tu fai anche il solista, fai mille cose, però insomma com'è la composizione e l'assetto allo stadio? Tu vai allo stadio domenica? Sì, io vado allo stadio. La composizione è un po' sbilanciata nei confronti degli juventini, perché sono 3-2 in realtà. Ce ne sono un paio che sono un po' più garbati, uno veramente acceso, che il nostro batterista, batterista in modalità. Il batterista garbato, il batterista garbato non si può guardare. Non può esistere, lì proprio andiamo, saliamo col Defcon drammaticamente in periodo derby. Però insomma, la gestiamo, devo dire, con un po' di difficoltà, perché poi è logico che rimane il gesto e tutto. Poi l'abbiamo detto prima, insomma, l'affetto per il Toro è... o meglio, la storia del Toro, il tifo per il Toro è iconico, quindi travalica e tutto. Devo dire che poi se anche uno ci gioca facendo un po' di ironia sulla roba e tutto, tra lunedì e martedì sentirsi viene sempre un po' più difficoltoso. soprattutto dopo i gol all'ultimo minuto, se posso, scusa, mettere quindi il dito, perché si registra dal mercoledì al venerdì sera. Beh, ragazzi, ma insomma, negli ultimi anni qual è il stato derby, quello in cui Pirlo segnò drammaticamente. Io non so se voi ricordate quel drammatico evento. Sì. La parte più drammatica fu che Immobile lo colpì pochi minuti prima con una pallonata gigantesca, per cui per 10 minuti è stato un fantasma in campo. Quindi questo suscitava in noi, che eravamo serenamente a quel punto davanti al televisore, finito, perché eravamo fuori, è finita, facciamo, e ora sta consegnando il caffè Borghetti in curva, e tutti quindi abbiamo fatto l'ironia. Toro 11 contro 10, tra l'altro. Toro in 11 contro 10, credo, no? E poi Benassi ha perso quel pallone che ci ha veramente drammaticamente punito. Quindi insomma ci auguriamo che i gol siano finiti all'ultimo punto. E speriamo, insomma, speriamo in una bella partita. Speriamo che, come dire, vinca veramente chi gioca meglio. E mi pare che adesso al netto della classifica. Assolutamente. Quindi gioca meglio il Toro. ecco, non l'ho detto, ha fatto tutto un lunghissimo giro. Poi così non me la sono neanche finita la trasmissione. Perfetto, allora, abbiamo sentito. È giusto, no, Sandro? Gioca meglio il Toro, sì. Domenica scorsa non mi pare abbia giocato una gran partita. Ha ragione. Purtroppo i ragazzi ogni tanto si stavano già risparmiando per il derby. Già pensando al derby. Ma sei soddisfatto della Juve fino a questo momento? E soprattutto, insomma, dove c'è il margine di miglioramento? Perché insomma, Higuain si può fare di più, si può dare di più, direi, no? Ma guarda, io la gente che si lamenta in questa posizione di classifica, con questa Champions League fatta senza perdere, con due soli gol subiti, l'unica squadra che è in testa al campionato che ha vinto il girone di Champions, io non la capisco. Abbiamo avuto per due mesi Marchisio in palestra e ci siamo arrangiati con Hernanes, con Sturaro, con Lemina, che ovviamente non sono Marchisio, ma che hanno permesso alla Juventus comunque lo stesso di prendere la testa della classifica, di passare. Quindi io, ecco, un giocatore come Benassi, che lì capisco se è un derby, perché ci misero 7 secondi a segnare, cioè mancavano 7 secondi alla fine, questo perde una palla, Pedretti, giovane, forte, dice vabbè, che cavolo. E invece in 7 secondi si può perdere un derby. Ecco, un giocatore come Benassi, terribile. Prenderei, non ti sei ancora ripreso, capito. Ma me lo prenderei nella Juve. Ecco, Benassi è il giocatore del Torino che temo di più, proprio perché c'ha una qualcosa di personale. C'è passato, c'è passato. Potrebbe essere l'uomo che poi alla fine per riscattarsi. Ecco, insomma, siccome è molto forte, è un giocatore molto forte, Benassi, e che cresce ogni anno. Lui, non me l'avete chiesto, ma io ve lo dico, se dovessi togliere un giocatore del Torino toglierebbe. Siete meravigliosi, perché fate tutto voi. Grazie, buon derby. Mica pizza. Ma ce l'auguriamo da te, che vinca il migliore. Sì, certo, che vinca il migliore, quello sfavorito, quello dietro in classifica o davanti, a seconda dei punti di vista. Grazie. Ciao. Buste, dopo quell'errore per 2 o 3 mesi niente, non giocò, fu una specie di Tu pensa a Wallace. Lo so, ma infatti, guarda, l'ho detto anche in telecronaca l'altro giorno, cioè adesso, e l'ho chiesto anche al povero Cruciani l'altro giorno, che però mi ha detto non ce la faccio ancora Wallace, non lo posso vedere oggi perché era troppo fresca la ferita, però quando sei così giovane e commetti un errore così grave, il rischio che per qualche settimana ti cambi un po', no? L'umore, la percezione, l'autostima. Anche per qualche mese. Però anche per qualche mese. Il grande giocatore, facciamo un grande in bocca al lupo a Wallace. Noi invece apriamo la rubrica Chi l'ha visto? Neymar, sempre lui, ancora il filtrante buono per Gabriel Jesus, riesce in qualche modo a toccare indietro il pallone, Gabriel Barbosa, ed è la doppietta personale, 4-0 Brasile, ancora lui, Gabigol. Con l'Inter che invece ha fatto scelte diverse e, come stiamo raccontando, aspetta nelle prossime ore già a Milano Gabigol, attaccante brasiliano. Io credo che qui si parli sempre anche un po' troppo dei giocatori che non giocano e perché non giocano. Io credo che dobbiamo lavorare di squadra, pensare di squadra, e poi c'è un allenatore che ha tante soluzioni da mettere in campo e cerca di, in base alle proprie caratteristiche della squadra, dei propri giocatori e degli avversari, di schierare i giocatori più affidabili, più pronti. E se Gabigol non è ancora stato scelto, significa che in questo momento è meno pronto di altri suoi compagni. Ieri sera il nostro Giorgio De Luca è rimasto particolarmente colpito da queste parole e allora ha chiesto di aprire la rubrica Chi l'ha visto? Fabrizio Biasin, Franco Ordine, c'è Pierluigi Pardo. Buon pomeriggio a voi. Se avete segnalazioni, 800-24-0024 oppure 349-238-6666, diteci che fine ha fatto Gabigol. Allora, Fabrizio, chi è che vuole iniziare? Sì, io l'ho incontrato. Franco. Sì. L'ho incontrato all'ATA, all'ATA, l'aeroporto privato di Milano attaccato all'Inate. Che ci facevi tu all'ATA, scusa? Che fai all'ATA? Come? Che fai? C'hai l'aereo privato oppure arrotondi nel tempo libero? Cioè, che... Io arrotondo naturalmente perché non c'è... devo pensare al prossimo anno e quindi che fai l'assistente di volo? Che fai? Sì, no, faccio proprio il guardiano delle macchine di Gabigol. Sto scherzando, naturalmente è evidente che Gabigol è un mistero per niente glorioso, ma un mistero che comunque attiene all'errore clamoroso di quest'estate, cioè che deve coinvolgere anche noi, perché i giornali, i commentatori, gli addetti ai lavori si sono lasciati influenzare dai fuochi d'artificio João Mario, Gabigol, Gabigol e João Mario, senza entrare nel merito della questione, cioè rispondendo ai famosi tre quesiti. Primo, saranno utili all'Inter di quest'anno? Secondo, sono in grado di giocare nel calcio italiano, nel campionato italiano subito? Terzo, in quale condizioni arrivano? Uno dall'europeo, l'altro da un campionato che lo ha abituato a fare solo e soltanto la prima ballerina. Questo è l'errore. Con in mezzo anche le Olimpiadi. Ma io vi faccio questa domanda e ve la faccio scandendo bene la parola. Carissimo Fabrizio, ma chi ha sbagliato quest'estate? Ripeto, chi ha sbagliato? Cioè, a chi dobbiamo presentare il conto? Ma allora, io sono parzialmente... Abbiamo capito! Andiamo lì! Mo, vedi a te! Abbiamo capito che fa la battuta con chi è! Perché ha sbagliato chi è! Io sono parzialmente d'accordo con Franco, però non voglio ancora arrendermi, alzare le mani e dire questi sono due bidoni, due errori dell'Inter. No, ma parliamo di Gabigol, João Mario, magari un altro discorso. Allora, parliamo di Gabigol. Allora, io finché non lo vedo giocare non posso giudicare. L'ho visto quest'estate, mi è sembrato un buon giocatore. So che il Barcellona avrebbe fatto carte false per averlo, tant'è che ha portato anche in tribunale l'ex squadra di Gabigol. Io credo che probabilmente non siamo di fronte al nuovo Ronaldo, forse non siamo di fronte neanche a un'unghia del nuovo Ronaldo, ma le parole dei tecnici che hanno allenato Gabigol non mi convincono del tutto. Cioè, io mi rivolgo a Pioli, che secondo me sta facendo un buon lavoro e soprattutto tenuto presente che in questo momento tutti quanti lo stanno martoriando con la questione Simeone, e vabbè, lasciamo perdere. Dopodiché, scusate, però sul 3-0 per il Napoli, hai bisogno di provare, sperimentare, mettere davanti qualcuno più preparato di Gabigol? No, fagli giocare 10 minuti. Almeno ci rendiamo tutti quanti conto che non è pronto e non ci perdiamo più sonno. Viceversa, saremo sempre qui a dire perché questo ragazzo non può giocare 10 minuti nell'Inter. Adesso, ripeto, non sarà Ronaldo, ma probabilmente se è costato quel che è costato, qualcosa varrà. Vabbè, no, non mi avete spiegato perché non gioca. Oh, Franco, c'è chi propone anche Bacca per la rubrica, sì, che l'ha visto. Ascolta, io te lo spiego io perché non ha giocato. Non ha giocato ancora perché durante gli allenamenti, durante le partitelle, non dà l'idea di essere un giocatore, tra virgolette, sintonizzato con il calcio europeo. Lui è abituato al calcio brasiliano, che scandisce ritmi molto blandi per gli attaccanti che devono tornare a dare una mano. Secondo motivo, che è un vecchio contenzioso tra me e Biasi, il vero ruolo di Gabigol quello di esterno destro, cioè di ala destra, dove c'è Gianluca Andreva, che non mi pare abbia particolari... Invece secondo me, Franco, qui si può fare un ulteriore passo avanti, cioè visto che l'Inter negli ultimi due anni ha provato 58 moduli e tutti per un motivo o per l'altro non sono funzionali a questi giocatori, che saranno stati anche assemblati male ma hanno una certa importanza, forse sarebbe il caso di provare il modulo che ci siamo un po' dimenticati, cioè, sì, però il potrebbe provare il 5-3-5, così trova spazio a tutti. Mettiamo di fianco qualcuno a Icardi, non dico per forza sì. Gabigol, ma no, un attaccante, qualcuno. Io ti dico la risposta che ti dà in privato Pioli. Pioli dice: ma io in questo momento in cui devo tentare di mettere insieme uno straccio di squadra dal punto di vista tattico, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista ambientale, non posso perdere tempo per tentare di inserire Gabigol. Prima c'ho altri io problemi prima da risolvere. Faccio il tetto e mi metto tutti al riparo. Sì, poi, ho capito, però eventualmente... Franco, il giorno che diluvia tu non puoi lavorare sulla casa, non puoi fare il tetto. Quindi se a Napoli diluvia e stai prendendo 3-0... Ma non è che 10 minuti a Napoli sul 3-0 cambiano la situazione. Ma non è questo, è anche per mettere in pace il ragazzo, perché in questo momento lo stesso ragazzo sta dicendo: ma io che cosa c'ho? Sono appestato. Ma telefona a Chia e gli chiede perché non gioca, no? L'ha fatto anche il suo procuratore. Ma, ma gioca domenica? No, non gioca domenica, secondo me non gioca domenica. Io credo che sia stato abbastanza chiaro Pioli, e Pioli dice che ce ne sono altri più preparati. Ieri abbiamo visto un ragazzino che evidentemente è più pronto a di Gabigol, sarà così probabilmente. Che è un 99, si chiama Pinamonti, viene dalla Primavera. Ha fatto anche bene ieri. Cioè, ha fatto anche bene, però è costato, ripeto, anche un po' meno di 30 milioni di euro. Però io non accetto neanche quelli che dicono se metterlo in campo adesso significa svalutarlo, ma più svalutarlo di non farlo vedere a nessuno, secondo me non c'è. No, ma infatti, ma assolutamente. Cioè, è già svalutato, se non gioca è già svalutato, quindi l'unica possibilità è che attraverso dei tentativi propone di cacciare Ausilio, c'è chi propone adesso... No, Ausilio è uno dei pochissimi incolpevoli. Ma perché non lo voleva lui Gabigol? No. Non soltanto perché non lo voleva, ma perché ha dimostrato nel passato, quando non c'erano soldi, di fare un eccellente lavoro. Se poi vogliono buttare via tutto... il bambino con l'acqua sporca, che si accomodino pure. La verità è che in questo momento non esiste una società all'Inter. Io sono drammaticamente d'accordo con Franco, quindi sono molto preoccupato. Perché adesso arriva il weekend, stai tranquillo. È vero che l'estate scorsa l'Inter ha speso tantissimi soldi, ma per portare a casa qualunque cosa, senza badare al fatto che poi bisogna comporre i puzzle, e il puzzle dell'Inter manca di diverse tessere. Questa è una squadra che difficilmente assemblabile e non riesce a presentare un 11 equilibrato, purtroppo. Va bene, grazie Fabrizio, grazie Franco. Ciao ragazzi. Scusate, volevo sapere ma avete parlato di Strootman? No. Sì, abbastanza. No, che, sì o che no? È successo? Sì, dici la tua. No, volevo dirvi che questo è il primo clamoroso la prima clamorosa bocciatura del nuovo giudice sportivo. Sì. È entrato col piede destro, è entrato col piede giusto. Se l'è un po' cercata, sì, diciamo appunto. Anche che se l'è un po' cercata. Giulia Sportiva ha fatto una roba che non... Abbiamo mandato a casa un gentiluomo d'altri tempi che non aveva mai sbagliato una mossa per prendere questo nuovo giudice sportivo alla prima occasione, pum! Porta in faccia dalla ex commissione disciplinare e vai. Non benissimo, si può sempre fare meglio. Grazie Franco, grazie Fabrizio. Ci vediamo all'ata dopo. Andate. Abbiamo Franco e Gabbiano, io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Alvise Falzone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. L'appuntamento è per domenica alle 17, quando potremo raccontarvi tutto del derby di Torino. Per il nostro domenicale, vi aspettiamo. Come si diceva una volta? Domenicale. Ci vediamo domenica col domenicale, va Sangue bene? Sangue Arena, però. Te Luca, che fa Napoli a Cagliari? Vince facile. Ha detto che vince 1-1, facile. 2-0. Che fai? No, 2-0. 2-0. Fatto le gol. Fatto segno con due dita. 2-0. Va buono, vai. 2-0. E a me. Ciao. Falco e Gabbiano.